Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il rovescio della medaglia è che non puoi stare molto tranquillo, perché appena tu ti assopisci in un bar, in uno scompartimento di treno, appena tu spalanchi gli occhi per guardare fuori, ti dicono subito: scusi, volevo farle una decina di domande. E quindi è una trappola mortale. Una trappola mortale. Io penso che poi la popolarità sia l'unica vera grande gioia che possa dare questo mestiere, essere riconosciuto. C'è gente che per essere riconosciuti, li vedi quei pazzi che si vanno a piazzare dietro i domandatori, no? C'è sempre qualcuno, perché tutto considerato la popolarità è una cosa che rallegra. Nessuno mi ha detto: se hai bisogno di denaro, perché io sono disponibile. Mai. La domanda invece alla fine dice: se per caso tu potessi darmi una mano, io ho bisogno di denaro. Questa è la domanda più frequente, purtroppo. Certo, detto da un genovese, se vogliamo proprio cominciare a prendere a martellate i luoghi comuni, è la frase essenziale. Il successo crea popolarità, la popolarità crea consenso, il consenso crea attenzione, l'attenzione gratifica, però alla fine il personaggio noto, il personaggio famoso, il personaggio è sulla bocca di tutti, negli occhi di tutti, naturalmente alle spalle si immagini che abbia una concreta e enorme disponibilità economica, e quindi essere contaminati da lui non è soltanto toccare come una reliquia una persona attraversata dalla grazia del successo e avere comunque anche un beneficio economico. Ho vissuto questa situazione qualche mese fa, ho incontrato Paolo Villaggio in treno, accompagnato da un signore che non avevo immaginato che fosse il figlio, pensavo che fosse un suo assistente. Poi mi ha detto: sono il figlio di Paolo Villaggio, piacere, Piero Villaggio. Nella mia ignoranza non conoscevo la genealogia di Paolo Villaggio. Per me il figlio di Villaggio era soltanto la babbuina Mariangela. Non immaginavo che nella realtà, visto che per me Villaggio è Fantozzi, non ci potesse esistere altra traccia di un figlio. E questo mi fa capire che oggi parlare con Piero Villaggio del libro in cui racconta proprio cosa significhi vivere all'ombra, alle spalle di un padre importante, grandissimo. Villaggio è probabilmente una delle persone più note nel nostro paese, perché ha attraversato l'immaginario generazioni. Io al liceo leggevo i libri di Fantozzi e facevo le battute di Fantozzi assieme ai miei compagni di liceo, e io ho 61 anni. Mio figlio, che ha 20 anni, conosce tutte le battute di Fantozzi, sa esattamente a memoria tutti i film di Fantozzi, quindi ha attraversato almeno 3 generazioni, quindi è un personaggio sicuramente ingombrante. E come fa Piero Villaggio aver vissuto vicino a un personaggio del genere senza essere Mariangela? Buongiorno Piero. Buongiorno a te Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come hai detto tu, non è facile, voglio dire, ci sono pro e contro. Adesso dire che ci sono solo contro non sarebbe neanche onesto. Beh, hai fatto una bella vita, agli inizi almeno parli di una vita molto, in un bellissimo quartiere di Roma, uno stupendo quartiere di Roma, una bella gabbia dorata, però a un certo punto ti sei reso conto un giorno che tuo padre non era più quell'impiegato genovese con 2 figli, con una moglie, è una persona che ha la casa piena di troupe televisive, quindi te e tua sorella state messi in una bellissima casa di fronte a casa di tuo padre. Esattamente, noi abitavamo in un comprensorio a Roma e quando mio padre è diventato famoso, io peraltro ho avuto sentore di questo nel 72, credo il primo Fantozzi, avevo 10 anni, quando andammo alla prima di questo film al Barberini e mi accorsi che c'era un muro di fotografi, gente che lo chiamava, che urlava: Paolo, qua, di là. E io mi resi conto che forse mio padre faceva qualcosa di particolare, perché i papà dei miei amici non facevano le stesse cose, insomma. E qui è cominciata la tua vita all'ombra di Paolo Villaggio. Ci fermiamo un istante per dare le informazioni necessarie. 800240024. Racconteremo una storia difficile, una storia anche dolorosa, una storia però alla fine a buon fine, direi, che ha avuto un esito felice, perché ho tra le mani un libro, e un libro è la migliore elaborazione di ogni dramma possibile e immaginabile. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Questa mattina chiunque può chiamare può fare domande, può avere risposte su quello che possa essere il senso di essere il figlio di un personaggio notissimo, stranoto, più noto di ogni politico, più noto anche di ogni attore. Vedere Villaggio per strada o vederlo in treno è un'esperienza singolare, non può stare in pace un attimo, chiunque viene, vengono a farsi le foto, anche il signore che pulisce i gabinetti passa con la sua borsettina e chiede di farsi un selfie accanto a Villaggio, e quindi di buon grado deve farsi un selfie anche lui. Piero Villaggio ha scritto questo libro per Mondadori, Non mi sono fatto mancare niente, la mia vita all'ombra di un padre ingombrante, e racconta la storia della sua vita. La seguiamo in maniera cronologica, esattamente come l'ha scritta lui, partendo da, naturalmente dalla fine, da quello che fa adesso. Adesso è un signore che coltiva olive e melograni in Umbria. Sì, adesso vivo a Città della Pieve da 7 anni, ho deciso con mia moglie di andare via da Roma. E ho 180 piante di olive e 800 piante di melograno. E contestualmente poi faccio il mio lavoro, che ultimamente era anche stare molto vicino a mio padre, perché... il suo agente storico non c'è più e quindi io lo aiutavo nelle sue cose, se no faccio il promoter teatrale oppure mi occupo di eventi pubblicitari. Quindi adesso hai una vita ricca, intensa e fra virgolette normale. Sì, sì, tra la tua vita non è stata normale. Per niente normale. No, diciamo di no. Non ti sei fatto mancare niente. Allora, partiamo da quei bambini, te e tua sorella, nella vostra bella casetta con la cameriera ve la mette a posto, allora. E dalle finestre vi affacciate, vedete la casa con i vostri genitori, che non vi fanno mancare nulla. Tanto che te un giorno vuoi fare la raccolta delle figurine panini, vai col tuo papà all'edicola, cosa succede? Ah, questo è un episodio emblematico nel quale cerco di raccontare il rapporto difficoltoso che c'era con mio padre all'epoca. Io e mio padre andiamo una domenica dal giornalaio insieme e lui mi chiede cosa voglio, gli dico le figurine, come tutti a 10-12 anni facevo le figurine. I calciatori? I calciatori, sì. Che anno era? I primi anni 70? Ma credo che sia il 72-73. È l'anno del successo, sì, lui era già Fantozzi. Sì, sì, esattamente. E lui dice va bene, e dice 150 pacchetti chiede al giornalaio. Io lì per lì rimango 150 pacchetti, io ne compravo uno, due, tre pacchetti. 150 pacchetti, io non sto nella pelle, sono felicissimo, vado a casa, scarto tutti i pacchetti, comincio a... in pratica finisco l'album. Lì per lì ero contento, ero felice. Poi c'era una strana inquietudine, non capivo esattamente cosa fosse. L'ho capito dopo. Il gioco delle figurine è ce l'ho, mi manca, non è finire l'album. Quando certo. Hai finito l'album è finito il gioco. Ecco, mio padre di questo non se ne è reso conto, non me ne sono reso conto neanch'io. È quello che lamento maggiormente di mio padre in quel periodo di grande successo, di grande popolarità, dove poi mio padre non nasce attore, mio padre comincia a Little Cedar come impiegato. Era un impiegato. Tu te lo ricordi il tempo in cui era impiegato? No, ero troppo piccolo, perché quando noi siamo andati da Genova a Roma io avevo 4 anni. Tu hai una memoria di una famiglia normale? Banale. Beh, no, in questo senso sinceramente tu comincia no. Subito nel quartiere Pariolino, bello di Roma, dietro Villada, così. Sì, comincia. Beh, allora non era così, perché era molto molto diverso, nel senso il comprensorio dove abito io, che era via Pezzana, e c'era solo il comprensorio, intorno mi ricordo che venivano a pascolare le pecore. Cioè, quindi non c'era la moschea, non c'era Viale della Moschea, non c'era il centro Aniene, era veramente diverso. Però io ero piccolino e dentro quel comprensorio è cominciata la mia vita. Dopo qualche anno, quando appunto mio padre ha cominciato a diventare famoso, la casa era abbastanza piccolina, era una casa normale di 100 metri quadri, noi eravamo in 4, con la cameriera eravamo in 5, quindi era piccolina. Allora i miei, invece di cambiare casa, decisero di prendere un appartamento di fronte nel comprensorio, attraversando il prato. Dove stanno i bambini? E io e mia sorella, che avevamo 12 io e 14 lei, o forse 11 io e 13 lei, andiamo in questo appartamento di là. Uno potrebbe pensare, povero bambino abbandonato. No, era una pacchia, perché per noi, per me assolutamente era una pacchia, perché con i miei amichetti noi eravamo lì dentro e noi giocavamo a Subbuteo, non so se ti ricordi. Sì, certo. I calciottolini piccolini. e noi facevamo le partite con campo impraticabile in salotto, tirando delle secchiate in salotto, secchiate d'acqua in salotto. Tu capisci che in qualsiasi famiglia normale ci avrebbero buttato dalla finestra. Tanto poi c'era la cameriera, puliva tutto. Brava, bravo, puliva tutto. Forse lo facevamo anche noi, ma chiaramente bambini di 12 anni non credo che lo facessimo bene. Evidentemente la cameriera doveva ripassare. Però per noi era una pacchia continua, quindi io il disagio di abitare non con i miei genitori non ce l'avevo assolutamente, anche perché poi a pranzo attraversavamo il prato, andavamo da loro, a cena lo stesso. Era come una casa con un piccolo distaccamento. Una dipendenza. Sì, dipendenza, sì. Velocemente tuo padre, da la vita di un impiegato qualsiasi, aveva cominciato a mettere a punto quella che è la gestione di un menage gentilizio con i figli nella dependenza, con la servitù. Insomma, diciamo, era stato immenso, immediato e poderoso il successo. Eh sì, perché lui ha avuto un successo abbastanza velocemente. Da quando ha cominciato da impiegato a diventare un attore di grande successo, è passato poco tempo. Sì, c'era la televisione, faceva programmi in televisione. Poi sì, Fantozzi fu una cosa esplosiva, ma prima ancora già i libri furono un successo. Prenditi conto, negli anni 70, che nessuno di noi leggeva, al liceo si leggeva comunque i libri di Fantozzi. Si portavano in classe e si leggevano. Quindi era una cosa inimmaginabile, oggi è inspiegabile con i parametri quotidiani. Quindi tu a questo punto ero un ragazzino fighetto, un po' viziato? Molto viziato, non un e po' viziato. Rispetto ai tuoi coetanei, come ti sentivi? Quando cominciavi ad avere dei sintomi che qualcosa cominciava a essere diverso, hai cominciato a ribellarti poi a questa situazione? Guarda, io ho avuto i primi sentori, a parte quell'episodio del Barberini, della prima, con tutti i fotografi, ma lì ero ancora piccolino, quindi sì, capivo che c'era qualcosa, ma non focalizzavo esattamente che cosa. Quando ho cominciato, dopo i 13 anni, i 14 anni, quando mi hanno comprato un motorino, il giorno del mio 14esimo compleanno, io avevo un motorino in garage pronto. Quindi quando ho cominciato a uscire da quel comprensorio, che era un po' la mia isola felice, perché lì eravamo tutti amichetti, tutti i genitori a massimo buttavano un occhio fuori nel prato per vedere dove eravamo. Noi stavamo tutto il giorno lì a giocare a pallacancello, palla avvelenata, palla questo, palla quello. Ma comunque era abbastanza una pacchia, adesso non puoi dire. Era assolutamente meglio di così non potevi. Era assolutamente. E cosa vi manca? Cosa ti mancava te in quel periodo? No, ho cominciato a sentire qualche cosa dopo, quando ho cominciato a uscire in motorino, avevo delle difficoltà a scuola, nel senso, come tutti i bambini c'erano delle materie che non mi piacevano, soltanto che a differenza degli altri, che dopo le prime note o il primo 4 magari c'è qualcuno che ti dice no, adesso ti metti a studiare, hai un controllo, io non avendo un controllo mi spaventava andare a scuola e quindi ci andavo poco, e all'inizio avevo dei compagni di avventure, diciamo così. Poi piano piano i compagni di avventure cambiavano, e poi fino a che sono rimasto da solo, perché poi gli altri erano più controllati, appunto. E quindi io praticamente passavo le mie mattinate in giro per Roma, andavo nelle sale biliardo, fingendo di andare a scuola, perché io avevo paura di andare a scuola perché non ero preparato. Conseguentemente, non essendo preparato, i professori erano più arrabbiati. Io sono stato rimandato in tre materie, che sono italiano, matematica e inglese, e la professoressa di matematica disse: ma io villaggio non lo conosco, cioè l'ho visto. Non andavi mai a scuola? Ecco, non andavo mai a scuola. Facevi sega continuamente. Bravo, a Roma si dice sega. Però tutto sommato era un inizio da giovane scavezzacollo di buona famiglia, ma molte volte poi questi ritornano nei ranghi. Te invece nei ranghi non sei tornato? No, io invece nei ranghi non ci sono tornato. Anzi, sei andato sempre avanti. Questo malessere, questo disagio è cominciato a diventare un malessere. Questo malessere, ho cominciato a sentirmi un pesce fuor d'acqua, mai adeguato, timido, facevo fatica a fare un po' tutto, a rapportarmi anche con le altre persone, con gli altri ragazzi. E quindi questo malessere piano piano si è accentuato fino a che io appunto non... me ne rendevo conto, ma non capivo bene da dove venisse, perché io non capivo, cioè onestamente non sapevo da dove venisse. E adesso faccio un salto subito, sennò la gente che ci ascolta pensa, cioè, vabbè, ma che vita avventurosa del piffero, andato in qualche... Ecco, arriviamo a un punto e tu stai con un tuo amico e ti fai il primo buco d'eroina. Io sono a Cortina, appunto, da ragazzo avevamo una casa a Cortina da molti anni, comprata da miei nonni. Io ho un mio amico di nome Carlo, lo chiameremo Carlo perché... Che era più scafato di te. Sì, lui aveva già dei problemi con la tossicodipendenza. Si faceva. Sì, lui si faceva. Io lo sapevo, ma non ne sapevo tanto, quindi non ci facevo particolarmente caso. Andiamo a Cortina, decidiamo di comprare un po' di fumo. Compriamo del fumo. Dopo qualche giorno, io chiacchierando con lui, tornando da una gita, gli faccio: Carlo, ma ci facciamo una canna? Guarda, è finito. Dico, come, scusa, abbiamo messo tutti quei soldi? Cioè, no, beh, perché io ne ho comprato un po', per il resto ho comprato la roba. La roba lì per me, la roba, come la roba? L'eroina. Lì per lì, con una ingenuità, con una superficialità, se vuoi stupidità, cioè non ho assolutamente pensato a niente. Lui mi ha detto, vuoi provarla? E gli ho detto sì. L'ho provata, nel libro raccontato, un racconto un po' forte, il primo buco, perché io ho cominciato subito con un buco, io gli ho dato un braccio. E ti ha fatto un buco. E... ecco, tu fai una descrizione che non leggerò alla radio, perché voglio che la gente centellini il libro, che trovo la più fantastica descrizione di un attimo di piacere che abbia visto legata alla droga. Perché l'ipocrisia, tutti dicono, pensano sì, sia... E infatti tu dici, in quel momento ti sei spalancato le porte del paradiso, dici, una goccia di miele ma ha cambiato tutto, e anzi ti sei anche trattenuto per paura di fare uno spot, sì. Però l'inizio era questo. L'inizio è stato quello, è stato per me di botto, nel giro di pochi secondi, tutti i miei problemi, tutte le mie ansie sono sparite. Una magia. Io ho detto, beh, ho trovato la mia panacea, cioè questa è una cosa fantastica, come è possibile? Senza mai pormi il problema che cos'era, cosa non era. D'altronde non eri abituato a porti molti problemi. No, assolutamente. Anche il fatto come ti arriva, tu telefoni al tuo pusher a Roma, ti manda alle poste il pacchetto con l'eroina. Sì, c'è questo episodio. Però fermati un attimo, lo raccontiamo fra un istante. 800 24 00 24, dare la linea alla borsa. Allora, comincia adesso il bello. Comincia la discesa negli inferi. Sennò pensate che stiamo raccontando la storia di un ragazzetto viziato dei Parioli. Non è così. È un cammino verso il basso molto faticoso, estremo, e poi c'è una risalita. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di tre pezzi a rate ricoprita con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Questo è il monologo di Mark Renton di Trainspotting, che porta tale quale tout court nel suo libro Piero Villaggio, Non mi sono fatto mai mancare niente, nel capitolo intitolato La discesa all'inferno. Ti eri molto identificato te in questa scelta di vita, era una scelta a quel punto. Sì, sì, beh, a quel punto sì, forse non del tutto consapevole, però sì, a quel punto sì. Sembrava una figata alla fine, rispetto a quello che c'aveva alle spalle, la vita borghese, normale, naturale. No, mi sembrava soprattutto di aver risolto i miei problemi, questo era per me fondamentale, che io non avevo più le ansie, più tutto quello che mi rendeva la vita difficile, non c'era più. Fino a che una volta tu pensai di avere la febbre, dici, ma sai, c'è un po' di brividi, sento freddo. Il tuo amico ha detto, ma che febbre? Sì, tu sì, c'hai sì. La scimmia, altro che febbre. Succede così, purtroppo, che il mio amico lì a Cortina, siamo rimasti lì a Cortina rapidamente, perché poi spero che leggiate il libro, e non voglio anticiparvi tutto. Comunque siamo lì a Cortina, dopo qualche giorno il mio amico, che aveva già dei problemi di tossicodipendenza, prende e sparisce, nel senso, io vado a casa sua, non c'è più, mi telefona da Roma, non c'erano i telefonini, allora mi chiama e mi dice: guarda, io non ce l'ho fatta, sono andato a Roma. Dico vabbè, in tutto questo però c'è un piccolo episodio, che lui mi aveva pregato in qualche modo di aiutarlo, io non sapevo come aiutarlo, mi ricordavo di un amico, tra virgolette, che trafficava in appunto eroina. Quindi lo chiamo, gli dico: senti, ho questo problema, mi fai una cortesia? E lui dico: va bene, non ti preoccupare, te la mando. Le poste italiane, proverbiale, insomma, la velocità delle poste italiane. L'eroina partiva con un pacchetto da Roma e arrivava a Cortina in un pacco postale. Dentro una lettera. Noi aspettiamo 2 o 3 giorni, lui appunto non ce la fa, prende parte. La lettera non arriva, appunto, per la nostra velocità delle nostre poste. Dopo qualche giorno arriva questa busta. Io non mi ricordo neanche più, poi... Ah, una lampadina, ah, dico, ah, è vero, apro la busta e mi trovo questa saccocciata di polvere bianca, non sapevo veramente che farci, quindi la metto via, sto ancora qualche giorno a Cortina, torno a Roma, come torno a Roma chiamo il mio amico Carlo e gli dico: Carlo, ah, come va? Dico, ti ricordi quella busta? Beh, insomma, è arrivata, perché soltanto che non... Pronto? Carlo? Carlo? Non c'era più, dopo un istante, tun tun tun tun tun. Era sotto casa tua. Era sotto casa. E da lì è cominciato. Allora andiamo per punti, dobbiamo fare dei salti epocali, perché sennò c'è tante cose da raccontare, ce ne sono alcune che voglio tu le racconti bene. Come accade in una famiglia dorata, bene, di Roma, lo stesso quartiere delle Baby Squillo, per far capire, sì, non è cambiato nulla, capito? I figli venivano protetti, ti mandano subito una più bella clinica svizzera a disintossicarti, appena la cosa sanno che è un problema, no? Sì. Quando... ti è servito quello? Assolutamente no. Quando salta all'occhio che un problema c'è, se non altro per le cifre che spendevo, perché poi io non ero un ragazzetto che andava in locali, macchinoni, quindi non capivano come facessi a spendere. Allora, una volta una stupidaggine, una volta una cazzata, una volta l'altra, però poi capiscono che qualche cosa non va. E poi non ti manca niente. Al tuo compleanno, mi sembra, 18 anni, tuo padre t'apre il garage, c'era una Cherokee 3000. No, quello non era il mio compleanno, era dopo. Era dopo. Comunque... Che festa era? Niente, così, un regalo? No, ero solo tornato da un viaggio molto lungo di lavoro, di tanti mesi. Ero stato 7 mesi fuori per un viaggio che si chiama Overland. Io facevo il fotografo e dopo questo viaggio io torno, li vado a trovare a Cortina, e non ci vedevamo appunto da 7-8 mesi. Li vado a salutare, poi dico: vado a fare un giro, scendo in garage, non trovo la mia macchina che mi ero comprato con i miei risparmi, ma trovo una macchina bellissima, un 6000 di cilindrata, cos'era, un Gran Cherokee, non ricordo cosa. Rimango allibito. Era la macchina degli spacconi romani, prima, sì, che arrivassero i SUV. Esattamente. Allora quella. Esattamente. Una macchina che io non potevo permettermi, perché chiaramente mantenere un 6000 di cilindrata solo di assicurazione devi fare un mutuo, una persona normale, e poi devi andare da un benzinaio all'altro, perché sono 2 km al litro, 3 massimo. E questo è un altro episodio emblematico. Però spiegami il paradosso, ecco, questo per far capire, se la gente ci sta scrivendo, dice: ma che gli mancava, devono mandarlo in miniera, via dicendo. No, però tu sei arrivato, lo descrivi nel tuo libro, a fare rapine. Sì, purtroppo sei arrivato a uscire con una pistola addosso e il tuo amico rapinatore ti ha detto: lascia perdere questa pistola, dove vai? Tanto allora, la ci fai. Allora, intanto spiega come sei arrivato. Chi scrive doveva andare in miniera non sbaglia del tutto, nel senso, quello che io lamento, che di cui accuso, tra virgolette, se mi passi il termine, mio padre, è una mancanza. Una mancanza come in quel periodo, e adesso forse ancora di più, perché adesso le coppie di genitori lavorano quasi sempre tutte e due, padre e madre, quindi hanno poco tempo per i figli. In quel momento... Ma che avrebbe potuto fare di diverso che mandarti nella miglior clinica svizzera disintossicata? Probabilmente, magari prima di mandarmi nella miglior clinica, forse avrebbero dovuto, ma sai, col senno del poi è facile, però avrebbero dovuto accorgersi forse di alcuni malessi, seguire di più il proprio figlio, seguire di più i propri figli. Ecco, questo, perché spesso si ha bisogno di una guida, spesso il classico i 2 scappellotti o il coso, forse funziona di più che un mega regalo. Ecco. La loro dimostrazione che c'erano era non farti mancare nulla. Assolutamente. Mia madre un po' cercava di mettermi in guardia da questo, però a me, detto onestamente, perché bisogna anche essere sinceri, a me faceva comodo. Perché a un facevi certo i fatti punto, tuoi io facevo assolutamente i fatti miei, non mi mancava niente, avevo dei macchinoni, facevo una vita della Madonna. Certo, non ero soddisfatto, non era quello che volevo. Forse si può dire facilmente: sì, beato te, vorrei vedere te che non arrivi alla fine del mese. Forse è anche vero, io questo non lo so, perché io ho provato quel tipo di vita e non l'altra. Ecco, tu non sei fatto mancare nulla. Mi spieghi, scusa la domanda ficcante, che si prova a fare una rapina. Cioè, te ti vedo davanti, so che adesso vai a coltivare i tuoi olivi, hai un buon profumo di signore pulito, sei ben vestito. Come sei finito a fare una rapina con i peggio dei peggio dei peggio? Allora, ci si finisce perché, allora, innanzitutto i tossici sono tossici. E dov'eri? Soprattutto dov'è? Qual è la location? Io ero a Los Angeles. A Los Angeles. Allora, tu hai fatto un rapinatore a Los Angeles. Allora, essere tossico ai Parioli, a Roma, e chiamarsi villaggio è una cosa. Cioè, ti devi svegliare prima dell'una per andare in banca. Non è bello quello che dico, ma è quello che è successo. È quello che è successo. Io questo problema avevo, di svegliarmi per andare in banca. Oppure di cambiare un assegno nell'alimentare dicendo, scusa mamma, ho bisogno del contante. Non avevo problemi. In questo senso, altra cosa è farlo a Los Angeles, dove villaggio non è nessuno se non forse un contadino spagnolo o messicano, scusatemi, dove non ti conosce nessuno e dove non hai soldi, perché a un certo punto io, i miei mi hanno chiuso i rubinetti, e quindi io il primo periodo mi sono venduto tutto quello che avevo da vendere e quindi andavo bene, dopo non ne avevo più e quindi hai estorto anche l'affitto alla signora della casa, sì, che aveva dato tua madre. Sì, perché loro mi avevano preso in affitto una casa a Holloway Drive in West Hollywood, un quartiere tipo i Parioli di Roma, diciamo così. E quando poi rimasi da solo, dopo i primi sei mesi che loro non c'erano più, io andai dalla signora dove avevo pagato, erano stati pagati due anni, dicendo, guardi signora, una tragedia, sono morti tutti a casa in Italia, mi dia i soldi, di tutto, il classico è successo di tutto, aiuto le cavallette, e signora devo andare via, mi ridia i soldi. Lei mi ha detto, ma guardi che lei perde buona parte della caparra. Dico, guardi signora, non c'è problema, mi dispiace, e presi questi soldi. Però te li sei bruciati subito, ma nel giro di pochissimo. E quindi a quel punto c'è un personaggio strano che diventa, sì, il tuo protettore, sì, questo afro capo dei rapinatori, degli spacciatori, è questo tutto. Body era un signore, perché all'epoca lui aveva 42 anni, quindi era molto più grande di me, era un ragazzo, un signore di colore, alto 1,90, pesava 100 kg da film proprio, sì, pesava 105 kg, era enorme, con queste braccione lunghe, parlava sempre molto piano. Qual era il suo lavoro? Lo spacciatore, lui faceva lo spacciatore. E le rapine le organizzava lui? Allora, lo spacciatore, a Los Angeles spesso fra spacciatori si fanno, cioè le rapine che noi facevamo erano non rapine in banca, sia chiaro. Cioè, qualcuno ti dà la dritta che il tuo concorrente spacciatore ha a casa un certo quantitativo di roba, e tu, sapendo questa dritta, ti presenti in 4-5 con dei falsi badge, i falsi pass da polizia, distintivi da poliziotto, della polizia, sfondi la porta, fai come si vede, armi in mano, entri. Il tempo che lui si accorge che non sei poliziotto è troppo tardi. Gli rubi la roba, cosa succede? Il rischio non c'è, il rischio canonico, perché lui chiaramente non può chiamare la polizia. Però ti può sparare e dire, ah, mi hanno rubato la roba, mi hanno rubato i soldi dello spaccio. No, l'unico rischio che Body appunto mi diceva, perché loro facevano questa cosa da anni, quando passato in disgrazia io non sapevo più come mantenermi, e quindi lui mi ha preso praticamente a casa sua, è un parolone, perché vivevamo in un fetido motel a Hollywood Boulevard, veramente un fetido posto. E lui una volta mancava una persona, la classica tra virgolette occasione, mi disse, va bene, vieni con noi, guida la macchina, ma tu rimani in macchina e non ti muovere. Loro facevano queste cose, entravano dentro, rubavano, prendevano tutta la roba che c'era, tutti i soldi che c'era, e scappavamo. E mi diceva, l'unico pericolo che noi corriamo, se si può chiamare unico, è di rapinare la persona sbagliata, che ha le armi e ti spara subito. Se rapini la persona sbagliata, velocemente, in 10 secondi, l'unica volta che hai tradito il tuo mandato e sei voluto andare a vedere che succedeva dentro, ho visto una scena carina da film, cosa stavano, allora, facendo? Una volta io ero fuori, chiaramente io non ero abituato a queste cose, quindi quei 5-10 minuti, 15 minuti massimo per me duravano 4 ore, quindi cominciavano a passare, i minuti passavano, loro non tornavano, io continuavo a essere nervoso, a un certo punto prendo e contraddicendo l'ordine che mi era stato dato, tu stai, entri in macchina e basta, entro, la porta è sfondata, quindi entro e trovo, diciamo, i miei complici, pistola in mano, una persona per terra legata, un tale Mike prende una bottiglia di whisky, gliela versa addosso e gli dice, accende un accendino e gli dice, adesso o mi dici dove la roba o io ti do fuoco. Beh, poi io credevo di morire, anzi pensavo di morire comunque lì, ho detto adesso muoio. Per fortuna questo signore, questo concorrente ha parlato, sennò facevano l'arrosto. Credo di sì, io non so, non gliel'ho mai chiesto. Allora, questa è la vita di Piero Villaggio, non è un film di Tarantino. A tra un istante. Melog. Cronache Meridiane. .800 24 0024. Nicoletti, che scoop, un ragazzotto viziato che racconta le sue prodezze, pubblicizza il suo libro, molto educativo. Allora, Piero Villaggio, non mi sono fatto mancare niente, visto le persone pensano che sto facendo uno spot al tuo libro, dimmi il passo successivo. Allora, siamo più bassi di così non si può arrivare, quindi no, sei arrivato. Questo è quello, è il clou di quello che mi è capitato in quel due passaggi. Ti mandano nella clinica svizzera, non serve una mazza. Allora, mi mandano prima in una clinica svizzera di queste stralusso, fantastica, 5 stelle, bellissima, dove avrebbero dovuto curarmi, dove è un furto legalizzato, veramente un furto legalizzato. Non serve. Infatti, a niente, dico anche il nome, si chiama La Meteria a Nyon, perché loro erano consapevoli di quello che facevamo. Io, la nipote di Rothschild e altri due figli di banchieri svizzeri, facevamo tutto quello che volevamo e anche di più, e loro non hanno mai battuto. Quindi era un'altra maniera per lavarsi la coscienza dei genitori potenti che non serviva la mazza. E ti mandano alla fine a San Patrignano. Quegli anni era il top San Patrignano. Allora, dopo la clinica, dopo anni di sofferenza, dopo Los Angeles, a un certo punto i miei genitori decidono che devono fare qualcosa. Quindi io, tramite un loro amico, rientro in contatto con loro, perché loro avevano tagliato tutti i ponti con me. Io vivevo a Los Angeles e loro a Roma, e avevano tagliato i soldi e tutti i ponti. Questo amico di mio padre si rende conto della situazione e dice: senti, guarda, aspetta un attimo che consulto, chiamo i tuoi genitori e cerchiamo una soluzione. Loro tornano e consigliati da un amico di mio padre, mi parlano di San Patrignano. Io lì per lì faccio finta di niente, dico vabbè, tanto torno in Italia, dove è più facile la mia vita da tossico. Una volta che tornate in Italia, poi mi arrangio. Invece loro, con un discorso, un'ottima, devo dire, rappresentazione di mio padre, perché in quello ha usato tutta la sua arte, mi ha fatto credere una cosa, invece mi ha portato a San Patrignano. E cos'era San Patrignano? San Patrignano allora non era altro che fango d'estate, polvere d'inverno, dei capannoni, delle roulotte scarcagnate, una casetta che faceva da ufficio. Io entro e trovo questa persona, Vincenzo Muccioli, una testa leonina, enorme, grandissimo carisma, veramente una persona fuori dal normale. Contornata da questi ragazzi, erano tantissimi, che mi dicono, allora, insomma, mi raccontano che cos'è il posto, che cosa non è il posto, e soprattutto poi Muccioli mi dice: guarda, io adesso ti abbiamo detto che cos'è qua, se tu accetti di rimanere, pensaci, se tu accetti di rimanere va benissimo, però sappi che non te ne vai più se non lo decidiamo allora, noi. In questo libro c'è una parte dedicata proprio alla descrizione di quello che accadeva a San Patrignano, che nessuno ha mai scritto con questa crudezza. Sì. Ti dico tre nomi: il Pino, la Piccionaia, il Tino, la Piccionaia e il Ceppo. Allora, purtroppo, io a San Patrignano sono stato 3 anni, il primo anno e mezzo è andato benissimo, dopo, quando ho cominciato a emanciparmi, a prendere incarichi di responsabilità, a scalare la scala gerarchica di San Patrignano, purtroppo sono venuto in contrasto con le leggi di San Patrignano, che erano assolutamente le leggi di Muccioli. Fra le varie leggi c'erano questi tre posti: il Tino è una botte, la Piccionaia è un posto dove si chiudono i piccioni, la Cassaforte, lo sappiamo tutti, era la Cassaforte, la pellicceria, vale a dire le persone che davano i numeri, che cercavano di scappare, che creavano problemi grossi, lui li prendeva, li chiudeva, perché li chiudeva in questi posti. Perché faceva questo? Perché diceva, devono tornare in sé, cioè quando ricominciano a ragionare io sono benissimo, sono felicissimo di accoglierli a braccia aperte. Io di questo sì, io ero contro la coercizione, però dicevo vabbè, se uno vuol scappare, rischia la vita, quasi sempre ci lascia le penne, dico vabbè, può darsi che forse abbia una giustificazione, forse no. Quando però comincio a capire esattamente cosa sono, specialmente il Tino è una botte, dove io mi danno l'incarico di portare da mangiare appunto chi è rinchiuso nel Tino. È una botte dove uno viene chiuso dentro nudo con un secchio e basta. E io apro questo Tino, esce fuori una persona con la barba bianca al buio. Io prendo il secchio, gli porto da mangiare. Esce un liquidino, un liquame umano schifoso, che è la condensa. Siccome i Tini sono di cemento, col corpo umano fa condensa. Io una volta che vi di questa cosa, andai da Vincenzo e gli dissi: oh, scusami Vincenzo, ma il risultato fu che un giorno ti detto un calcio in faccia, ti spaccò la faccia. Ti servì a questo? Perché oggi tu stai bene? A cosa lo devi? In conclusione, allora, una parola. Io lo dico, lo devo innanzitutto anche a San Patrignano, che mi ha dato maturità, mi ha insegnato tante cose che io non avevo imparato prima, che me l'avessero insegnato i miei genitori o chi che sia. Ecco, soprattutto mi ha insegnato che si può uscire, mi ha insegnato che con la volontà si può fare. Questa è la cosa fondamentale e alla quale io devo la mia vita anche a San Patrignano. Abbiamo finito, avete visto, il ragazzo viziato che vi stava tanto antipatico, alla fine fa una vita normale, oggi c'è uscito, ce l'ha fatta, è passato attraverso un percorso che non auguro sinceramente a nessuno. Non è una bella storia, ma è una storia a lieto fine. Alla prossima.